fidare a tenerlo, perché tanto la cosa la vende. Se non la prendono qua in Sardegna, la prendono fuori. La vendi by post, cioè se tu tratti bene, bisogna comprare da te. Così è. Sì, in effetti quello lì è un modo per rendere più vasto la cerchia dei clienti. Sì, quello lì è un modo che è intelligentissimo, che quando fai cose del genere, se non la compare già nei nocchi, la compare già nei fuori, però la gente sa che tu ce l'hai, anche qualcuno va la sassa di qualcuno da zona di caccia e cosa. Se tu sa che tu ce l'hai, viene e ci ferma lì a prenderlo. O l'ordina tramite cose. O l'ordina fuori, qualcuno da fuori. La cosa la vendi, perché la vendi per poco. Ah beh. Appaga. Ma non hanno tutti questa teoria di vendita, capito? Non sono tutti entrati in questo ordine di idee. È male. Oggigiorno bisogna muoversi, bisogna alzare le chiappe da terra e pensare un po' che bisogna patinare, non guardarsi i muri. Paga. Una progetto è altrove così, purtroppo ha questa mentalità che l'elettronica non interessa, non usa il computer, quasi tutti adesso ce l'hanno il computer e lavorano col computer, quelli moderni almeno ragazzi, ma questo che è una persona già grande. Guarda, io dico una cosa. Io non ho visto uno in Sardegna che abbia cose del genere. Cioè, non so se ci sia, né. Bisogna cercare, magari a Cagliari, questi qua. Quanto ne so io, no. Quanto ne so io, no. Non c'è nessuno. Ma secondo me anche per altre apparecchiature, perché poi in mezzo puoi mettere anche altre apparecchiature, tipo telecamere, telefoni, cioè li vendi, c'è poco da fare, cioè, se tu hai una cosa del genere che poi riesci a farti conoscere, tanto la roba la vendi. E che te devo dire? Lo so, Antu, ma non tutti sono propensi a fare. Io ho seguito un programma che c'era questo ragazzo che aveva preso questo servizio di vendita di scarpe, ha cominciato a vendere scarpe in tutto il mondo, è diventato un miliardario in poco tempo, un ragazzo di 21 anni. Così bisogna ragionare con la testa, è quello che non riescono a capire, bisogna ragionare con la testa, perché se tu il prodotto, quei mezzi che abbiamo oggi, se tu il prodotto lo proponi, ti fai conoscere, la gente, sei onesto, la gente va a comprare da te, perché sa che tu puoi darne anche una garanzia, se no non vantano, cioè, se tu sei tu sei così, sanno che di te si possono fidare e comprano, si vendi da tutte le parti. Beh. Un po' di gente non ci arriva col cervello. Cavagava. Dopo viviamo così anche. Aspetta un attimo che sono una bottiglietta d'acqua. Yeah. Marco, ma la cerca lo spinato se lo tu. Droga! Ciao, ok. Allora, KK, che ti ho preso lo spinato dalle cuffie, non vedo, l'ho tolte. Ma praticamente, non so se mi è caduto in terra, forse è rimasto attaccato al filo, e com'è mi è caduto in terra. Lo scimotto grande? No, quello piccolino, quello delle cuffie, là. Il riduttore da stereo a mono. Sì, ho capito. Non so se ne ho altri, adesso controllo, perché così non mi viene di ascoltare, che altro è fermo. Uno. Da. Eccomi qua. A tu. Buonasera. Buonasera. Mi sono tutti con un paio di dì. Ho un bocca, ma... Sono tutti ricchi, sono fatti vedere a una via, 512 miliardi di chips, no, tu so. È un bello. Ma è tornato, stormato, si sì. Ah, quello, no, poco c'ho, quasi 3 miliardi, ho passato. A me non sa neanche chi si vede. Sono a te. Senti, dove è il discorso che ho messo? No, ancora si può dire, è acceso, no, ma è acceso apparecchio, però no, non l'ho sentito. Ma stavo parlando a Gianni su questi che hanno negozi che per vendere, eccetera, eccetera. Io ho detto che con i mezzi che abbiamo oggi, se tu compri anche una cosa, cioè qualsiasi cosa, lo vendi lo stesso, perché se tu metti al computer, metti il coso, quel cazzo di foto eBay, tipo come tecno comunicazione, eccetera, eccetera, lo vendi qua in Sardegna, per esempio lo vendi fuori, però lo vendi. Beh, certo lo vedi, per forza. Poi bisogna vedere sempre se l'acquirente te lo vuole prendere, dico, bisogna vedere se ha avuto fregature. Non è così, no, tu, non è così. Adesso, per esempio, questa cosa l'ho comprato io, no, che era tramite una persona che conosceva già, l'aveva già comprato e si è trovato bene. Questo ricapito uguale a Radio Pardo, e diciamo che insomma è nuova la radio, comunque però c'è stati truffi, che tipo della roba. Oppure bisogna vedere anche chi truffi, se tu vuoi una persona che non si fida lo vuole provare, capito? Sto parlando di un negozio che prende la roba, io non sto parlando di private né niente, un negozio, una persona onesta e tutto, una persona onesta che fa le cose come deve essere fatte, la roba la vende. Ah, ho capito, privati, beh certo, sì, sono bene. Ma a proposito Gianni, ma quella fregatura di quell'apparecchio non è andata poi già? Due Gianni. Non lo so. Quale apparecchio? Mi ricordi che hai preso l'apparecchio e hai preso la fregatura? Quale? Ma non vedo quell'apparecchio lì, era tutto rovinato dentro. Ah, e come è andato? Ho regalato. Non ho aggiustato, ma con il Galaxy. Sì. Ho regalato. Ma dico, hai preso la fregatura anche tu, no? Più di un. Boh, non ci poteva fare niente? No. Ma perché no, scusa? Ho fatto la denuncia a... Ho fatto la denuncia a cosa? La polizia postale. E mi hanno detto che praticamente i cosi di quell'esercitore, stai dicendo? Che lo sanno che prima o poi li mettono le manette, ma fino a quel momento fanno la vita alla babbi, vanno in ristoranti di prima categoria, alberghi di prima categoria, hanno macchine grosse, moto grosse, case belle, insomma fanno una vita alla babbi perché ne fregano anche 30-40 persone al giorno. Pitto? E ma non era partito da me, ma in strada a me mi ha telefonato a casa, guarda che c'è questo apparecchio che mi hanno offerto, 200 euro, nuovi, ci regalano anche il microfono da tavola, e mi pare una cosa un po' strana, no, guarda nel sito, c'è tutto, c'è anche chi li trasporta, questo e quella. Allora Tasco, se riesci a contattarlo, l'ho telefonato davanti a me, ha detto sì, mandatemi i soldi che non c'è problema. Vi rispedisco subito. No, vabbè, io l'apparecchio non l'ho preso tramite una persona, siccome no, l'ha già comprato, se no mica era abbigliato, poi tu vuoi un apparecchio, capito? No, mi ha mandato l'apparecchio, diciamo che va bene. Che apparecchio ha preso? È il Fleugia, il com. Ah, quello, ma che cos'era, usato o nuovo? È usato, poi nuovo. Guaiu, questo funziona bene, sai. Un'operazione grossa che praticamente è comprarla la carta solo per fare l'ascolto. E poi una volta che tu lo chiamavi rispondeva, ce la buttava via la carta e poi non rispondeva mai più. Capito? Ma la carta è un testaccio, però già. Non è che una carta una scheda così, no? No, non è un testaccio, Luca. Hanno spiegato alla polizia, queste qui sono carte inglesi, non sono italiane. Scusa, una scheda con il testaccio, per forza. Sono scheda usegetta, capito? Tu per già un numero e basta, non c'è testatario di nulla. Tu la prendi, la paghi, dai il numero alle persone che ti interessa e ti chiamano con la carta lì, tutto lì. E poi la butti via, nessuno sa niente, devi chiedere chi non è. E se no l'avrebbero già sgamato. Ed è un'organizzazione che praticamente è a livello internazionale. Capito? Il sito hanno scoperto che è stato fatto a coso, in Pakistan mi pare, poi un'altra cosa è stata fatta in Olanda, un'altra cosa hanno scoperto che l'hanno fatta da un'altra parte, cioè a livello internazionale non li troverai mai. Ce lo aspetti allora? C'è una cosa allucinante, non. Non può essere, dai, non può essere, già, non può essere. Aprono un conto in una banca con West Union, che è praticamente una banca a livello internazionale. Aprono il conto, poi con un nome falso, poi vanno, ritirano e poi chiudono tutto e scappano. Ah, li fanno ogni giorno queste cose. Ah, sai quanta gente è fatto? Non mi ha detto quel poliziotto che hanno fregato anche il suo collega, figurati. Dice, prima o poi lo sanno che andiamo, li bussiamo alla porta e li mettiamo in fede, però non è facile. Prima di beccarli, dice, loro si hanno fatto una vita bella agiata. Ma bisogna stare attenti. L'unica non conviene comprare così. No, ma io non sto più comprando a privati, io compro solo adesso da ditta e basta. Non conviene comprare a privati. Ma Gianni, stai tranquillo perché quel sito lì. Sai come è stato il mio link? Aspetta. Sto dicendo, siccome è un sito online, no, anche loro, quelli del sito, che hanno creato il sito, devono anche mettere le persone, come si dice, devono mettere le persone a rischio che vanno a comprare e comprano fotiture, devono anche, chi mette un oggetto a vendere, devono anche loro sapere i dati di questa persona, capito? Ma vuoi sapere un'altra cosa? Siamo andati a vedere pure sai dove danno le stelline eccetera eccetera. Questo era un power seller, praticamente power seller è chi vende, chi non ha mai avuto protesi dalla gente eccetera eccetera. Su eBay risultava power seller, praticamente questo qua aveva camuffato anche quella cosa sui B. Cioè erano talmente esperti che anche uno che fa tutti i controlli ci cascava, perché io ho controllato lì, abbiamo telefonato al numero che ha messo, siamo andati sul suo sito a controllare tutto ed era tutto perfetto, si vedevano gli apparati belli, tutti lucidi, nuovi, con la scatola, con tutto. E ti ho detto, c'è 200 euro, si può comprare nuovo di zecca, capito? Lui ha scritto che erano degli avanzi magazzini, ne aveva tre. Se li volevamo tutti e tre ci faceva un prezzo speciale, non ci faceva pagare nemmeno le spese di trasporto. E noi gli abbiamo detto no, che ce ne servono due. Dice vabbè, vi regalo il microfono allora. Ho detto, ce li fa pagare 200 euro, nuovi ci regala anche il microfono, mi è venuto un po' il dubbio, e sabato, no, credo veritiero, l'ho telefonato, ha giurato di là, e sono spariti, sono volati. Tu cosa ne pensi? Io cosa ne penso? Io trovo una manica di bastardo, non sa niente, sono molto esperti. E lo fanno in altri paesi, fanno le truppe perché ci sono le leggi diverse, e non che in Italia si copre, però penso anche una cosa, meglio prenderla da qualcuno che sa, che conosci la roba o nuova. Mi ha detto cosa che mia moglie mi ha detto, ce l'hai proprio buttati quei soldi, un peccato. Purtroppo tu non le sapevi. Non le sapevo, io ho fatto tutte quante le ricerche, mi hanno detto, non è che sono andato a comprare così all'insaputa. Ho cercato tutte le cose che diceva la gente, siamo fatto le lettere loro, tutti i giudizi che davano, la gente scrivevano comprate perché sono dei venditori veramente in gamba, in 3 giorni ti arriva la roba, tutto è disarrivato. Salve, ti sono un attimo con Luca che vado a vedere cos'altro ha combinato. Si mette a toccare, non ne sa nulla, aspetta un attimino. E questo l'hanno la dottore Recovano sicuramente. Lucrezia. Casino. Lo sai già che sono andato allo speed stamattina, no? A comprare cosa? Tanto sono una bottiglia di spumante. Tanto spumante ho pagato 85 centesimi. Ah, buono, è buono. Ho bevuto mezzo bicchiere, ma di da buon affatto. Anche a me mi fa così lo spumante, boh. Lo so, anche se è dolce mi fa così. No, non ne bevo per quello, me l'hanno anche offerto a Natale, non ne ho voluto perché... E allora mi ha tolto questo vino spumantoso, non so se l'hai mai bevuto quello un po' frizzantino, tipo lambrusco, però è bianco. Come ho scatto di tempio, va. Sì, ho capito. Oggi va vitto. Però non so, c'è un cazzo di morte in mezzo, cioè non è roba sana, capito? E allora, cioè, ti faccio vedere un foglio che ho buscato da una persona che fa la guardia di finanza. Ci sono tutti quanti i coloranti e tutti i prodotti che ci sono con dei coloranti che sono mortali, sono velenosissimi. Vabbè, cioè io volevo. Ma io ho notato quante persone, sono una persona che stanno nelle strade che ho spiccioli, ma sotto di collo. Comprando spumante, birra, gran carriera, lì mi sono trovato al giorno quel cazzo dello spinne. Però ho notato che stavo aumentando i prezzi e sulla carne le di puzzolente, ho preso un po' quel carne marciata puzzolente. Poi ho dovuto mettere un freezer la carne. No, la carne io non l'ho mai comprata lì dello spinne, no, non mi fido. però le mozzarelle sono un bel buone, le mozzarelle landi, il latte è quello di Arborea, quello grande di Arborea. Ah, latte no, latte lo prendo dalla Suiza. Aspetta un attimo, è passato. Ah, ti preparo un massimo, una song, la puoi mettere 5-6 minuti massimo. Questa qua, aspetta, non è che ne ha messo una che dura 52 minuti. Adesso lo sbatto con fuori. Allarme. No, sono qua. America! Fagappa. Oh, già, lo sai che sono intenzionato a pigliare questo Alfaiette. Alfaiette? Ah, quello da 99 euro. Va. Adesso vediamo. Momento. Perché si chiama Alfaiette? Alfaiette, non è maraggio chi è. La Fayette, cos'è Fayette? L'Alfa Fayette. Quello che ha l'Alfa. Compressore microfonico, eccetera, eccetera. L'Alfa Sud. No dai, è l'ultimo secchio, raga. Quello che ti ho detto io, la Fayette, ma c'è quello lì e c'è anche uno. Aspetta, come si chiama? Che ce l'aveva quello di Alghero lui. Te lo ricordi che apparato? Ah, TTT880. Ma Giorino? No, Cona. Comunque ti metto lo chiama la Vaiette, la passola, la Vaiette. La Vaiette, no? La Fayette si chiama, la Fayette. No, l'ha avuto anch'io in Texas, la Fayette. Ma niente, un giacco, la passola. Allora, la Fayette. E a chi? Chi so chi fai cos'era? Non la Fayette. Sì, la Fayette fai, sì, è vero. No, quello che era Luca ce l'abbiamo noi. No, è tuo il 2, il vostro è il 2. Non è normale. Allora, la differenza è tu, dal vostro, al mio, che il vostro è più alla banda. Nota A, B, C, D, E. Nota da A, B, C, D. F, si manda. K. Ma c'è una banda in più quello che abbiamo noi. Infatti è la Fayette, Typhoon 2. Un K. E già l'hai visto che c'è forte. Poi c'è una forte, sì. K. O comunque adesso... Adesso vedo un po' più in là, dai, adesso non sono intenzionato. Però più in là voglio provare questo nuovo a Fayette. La Fayette, cosa cazzo. Che c'ha il coso, l'ho già visto, ha compressore microfonico, compander, tutte queste cose, canali, eccetera, eccetera. Penso che sia buono. Sempre la Fayette è buona. Antu. Vedi, tu non vota davvero costa, ma ingazzata. Adesso per il momento non posso. Se non ho qualche colpo di culo, me lo danno poco. Guarda, c'è una bella mancia massiccia. No, se quella mala sorte mi fa qualche miracolo, se me lo prendo. Pacchetta. Avanti Lucrezia. No, vabbè, ma lasciamo un apparecchi. No, questo lo posso dire. Io mi ricordo, cioè hanno fatto il tornado, 4.5 andata, domenico Tarzan. Ma ti posso dire che era un ottimo apparecchio. Sì. Proprio bello. Usciva bene di lusso. Un buon apparecchio. È simile comunque, dai, questo qua è il 4005. Allora, il tornado 4005 ha 271, mi sembra, 261, se non mi ricordo. Questo lo fa 5 bande, 54 o 20, 28 barali. Chiappa, sapete voi perché stanno facendo sempre meno microfoni, come si dice, amplificate, eccetera, eccetera, perché adesso nuovi apparati, tu attacchi e va già bene. Ma è questo, capo, questo c'è il microfono normale e fa bene lo stesso. Ma i nuovi apparati sono quasi tutti così, senti anche questo, cambio. Questo cos'è? Sai cos'è? È uno qua il tipo 50. Sempre, no, penso che lo faccio l'altro col microfono. Che apparecchietto, no, questo qui c'è il microfono, c'è la normale, ma c'è un compressore, si chiama Top Down, è un compressore microfonico. Che questo, anche questo, va alla grande. Ti può togliere il tuo? No, è sempre fisso il mio. Il mio va sempre bene, poi con l'eco va al doppio. No, questo qua si può togliere, c'è cose che non puoi togliere a me. Chiappa. No. Allora, ormai gli apparati sono così, cioè tu attacchi e... Cioè, adesso gli apparati che stanno costruendo, tranne qualcuno, così... Però gli apparati che hanno un po' di cose... Tu attacchi e va già bene, non c'è bisogno di... stare a comprare niente. Vabbè, questi ultimi che stanno uscendo c'erano tutti i finali a MOSFET, Noyos Blanker, che praticamente è per tenere il rumore di sottofondo, e poi vabbè, ecco tutte queste cose qua. Sì, vabbè, già bene così. E poi soprattutto, guarda, è una cosa che è buona che hanno fatto, che non pigliano più cose, cioè, a me non ti assillano più. Pure se senti qualche cosettina, però non ti disturba, non mi... cioè, tu parli e ti sento chiaro, senza problemi. È successo l'altro giorno che me ne sono accorto, vero? Sentì appena appena una bastona ai noti, insomma, che modula qua, io ero sta modulando tranquillo, no, senza problemi. Sì, sì, anche io col 48 BSX non pigliava splatter, non pigliava nulla, sotto casa di Gio Maria io non lo sentivo, e Massimiliano dalla 131 lo sentivo. Sì, sì, sono molto selettive. Guarda, meno male, cazzo, almeno quello, perché era una cosa impressionante. Faccio una volta che ho attaccato questo 48 in occhi, mamma, io ce ne scappo di essere in manca te di centi. Lo so, quelli lì fanno dei casini. Per quello normale, io ho quello lì, quello normale, mamma mia. 48 ancora ce l'hai anche quello uovo. Certo. Vabbè, non lo usi mai. No, per quasi mai. Mi sono bizzarrito con l'altro, ma guarda cosa tra queste, cosa è così a tanto. Nella cosa della. Nell'altra stanza si usano gli altri. Ma te l'ho usato anche qua già, a fare bordello. All'operativa. Sbagliava. Cioè quando mi attaccavo già attacca. Ma che appa. No, ma io te uso questi così normali. E adesso mi rimetterò anche una piccolina, piccolina, piccolina, perché già mi sta facendo rompere le scatole questa qui. Che? E perché? Tutti i gatti da Baita ne hanno venuti bene quante ne avessi in mano. Manco barbale, non è basta. Ok. Sì, già sono qua. Tra l'altro adesso sono passato, c'erano queste ragazze che stavano guardando anche a me vedere. Ho detto, mi fa ridere anche a me. Oh, guarda. Stavano parlando anche della macchina mia, stavano ridendo. E loro l'hanno segnata a noi. E ho detto, mi fai ridere anche a me. E loro che non lo dice ancora di più. E ho detto, se l'avessi avuto dove dico io non l'avresti visto. Ma quanto ne hai messo? La 2001 Turbo? Sì, ho messo la 2001, ma rimetto l'altra, tanto va bene lo stesso. Ok, va bene. Però se non usa se ne arriva poi fuori del fondo usa, ma è una futidina di luce. Io sinceramente non è che adesso ho da dire cosa per agli altri, io sinceramente le tele musicali macchina non le metterei mai, il furgone sì in caso, ma in macchina mai, ma ognuno può fare quello che vuole, a me non me ne frega. Vabbè, senza ombra di dubbio, no, ma io non è che sia condizionato da loro, è anche perché tocca, in alcuni punti dove vado tocca e dà fastidio, invece con la piccola andare troppo non succede nulla. Ma tu l'ho letto quell'affare, vuol dire guasto nell'impianto elettrico e cosa, però dice che spegnendolo, spegnendo il quadro e riaccendendolo sparisce, può sparire, se sparisce non riappare vuol dire che non è niente, è solo un contatto, se invece non riappare il coso bisogna portare a farla vedere, io ho fatto così e è sparito, quindi buonanotte. Faccio contatto sicuramente. E io mi dico da buttare, no? Oh, che sono strontate, è meglio così. Beh, quello non te l'ho preoccupato quella cosa là. Che cosa? E quel resettaggio, cioè, è quel problema là. No, no, no. E già, poi pure quella è una fesseria. No, quello me l'aveva già detto che era solo un'unità e basta. Ha messo uno spray e si è spento. Ah, gaffa gaffa. No, se non ricordi che usciva fuori, fuori il resettaggio usciva. Che cosa tu fai il resettaggio? Non ti capisco cosa vuol dire. Usciva fuori il resettaggio, cosa vuol dire? Vabbè, si smemorizzava, lo stereo. Ah, lo stereo sta proprio solo la macchina. No, no, non l'ha più fatta tu. No, no, non l'ha più fatta. Poi quando succede così già lo sai, bisogna agire, la fesseria anche quella. Yeah. Adesso non c'ho suoneria nel telefono, ho prestato la scheda, l'ho rimessa, mi ha scritto resettare, ho resettato che è sparito tutto quanto. Non sai di resettare perché deve farti tutto per la tua... è sbagliato. E vabbè, io pensavo che dovesse resettare altra roba, invece ha resettato le solerie tutto qua. No, dico, te la cancella perché deve partire con quel programma della telecamera. Già. La cancella la roba perché deve partire con quel programma della telecamera. Ah, ecco. E infatti, ma comunque, adesso me li devo rimettere la somiglia che avevo perché questa qua non la sento nemmeno, le nocchie appunte. Sì, la rimetti. Infatti devo tutto rifare tutto da capo. Già, già si fatto le cose, non c'è problema. Saggini, quello che fa picco, quello lì non fa più. Ce le hai tu, quei brani lì, da qualche parte? No. Sì, ah. Ha provato Giuseppe a mandarmeli, ma non me li mandava. No, non li manda? No, c'erano... col coso, col tutto aperto c'erano... tre ragazze e poi 4-5 maschi dove eravamo e quindi non faceva o non lo mandava, stava troppo ricercando ma non l'ho mandato. No, deve mandarlo per forza che deve esserci forse Giuseppe. tu devi prendere da lì, non devi prenderlo dagli altri. E lui che me lo stava mandando non tu. E io ho accettato, come si fa? Lo so come si fa tu. Ho accettato, però mi diceva che non era possibile. Vuol dire che c'è un bel traffico. Ma strano, ma ora ci voleva il codice, no? Abbiamo messo il codice. Nulla. Niente. Strano, molto strano. Strano ma vero. Se voglio fare se c'è suoneria al telefono. Perché mi pare che non faccio manco suoneria. Non c'è capire. Perché come ho tolto l'affare, come ho resettato ho uscito tutto. Ci è rimasto solo le suonerie del telefono, adesso non so nemmeno se suona, se. Prova a chiamarmi ancora. Va, hai detto a vedere. Ce l'ho qua. Beh, ci ha messo. Prima del telefono, ma lì l'ho preso e ho passato tutta la la memory card, la SIM. Adesso non c'è più niente nel telefono, c'è tutta la memory card. Sì, lo so. Comunque ce ne sono adesso che costano un bel poco, però ricordo il Samsung. Sì, la Samsung, ti volevo dire. Perché non c'è più memoria, allora lì lo passate sempre con la mano al computer. L'altro giorno mi sembra una foto, lo faccio al vostro computer uno e altri, ma quel campetto mi ha errore, boh, allucinante, che boh, strano, non riuscivo a farlo andare, poi alla fine cosa ho fatto, invece di fare, siccome mi dà tre cosi qua, non al telefono, PC, cos'era l'altro, PC, vabbè, altri due numeri, no? Ho cambiato, pure mi ha installato il nuovo driver, non ci va a farlo andare, allucinate, ha detto, ma fino all'altro giorno sta parlando che non va più, e allucinate tu cazzo di driver. Ma l'ho preso da internet? No, ho preso lì, ma si chiama, via, io c'è la singola, via, ora mi costa un giorno a è al corso. Alla Singer lì? No, allora quello più giù, come si chiama quello più giù? Quello che vende film e roba del genere. Rete 1, sì, l'ho preso, guarda di garanzia. Rai 1, una cosa del genere. Rete 1. KK. Com'è bellino, piccolino. Allora, sono andato, ho trovato 5, allora è Samsung GT GTS 5230. C'è il computer a portata di mano adesso, c'è mia moglie, quindi uno mia moglie e l'altro mia figlia, cioè i nonni non hanno più il computer praticamente. Aspetta, te lo dico subito, la Samsung, Samsung, GT, aspetta, GT, posso guardare, GT, S5230, sì, c'è quello, sì. Per forza te l'ho dato, è tutto, tanto. Tu l'hai visto? Potrebbe io già, insomma, non è che l'ho pagato molto, ecco. Però ho parlato la cifra lì, va bene, l'uso. C'è un po' di suonerie, posso mettere. È allucinante qua. C'ho anche il gioco miliardario, però non riesco a entrare. Milionario. Ancora il televisore? Sì. Cioè mi fa fare la prova, poi per scaricarlo ci sono i costi dai 3 ai 6 euro. Ah? Ma non la scarico una fiuta. Si diventa una buona. Ah? E la poi si ricarica e si diventa. Ma non mi diventa? Aggiunga. Ma mica è un gioco così, un gioco normale, non è che sia un gioco a pagamento. Poi sono dei giunchi a scaricare, ma non la futti nuda, no? Non so udissi, figli e fatti, no? Non interessa proprio niente. C'è gente che spende anche 2-3 ore per scaricarsi le suonerie. Ah, quindi mi ricarico giù da un computer. Si mettono la suoneria, una musica. Io gli ho messo la... come suoneria gli ho messo la canzone di Michele Giardino, l'Acrobat, la conosci? No. Qua lì c'è una suoneria. Poi c'è una suoneria e... quello che vuole gliela metto, non è un problema. E basta scaricartela un po' poi te la scegli, io c'avevo quella di Pinocchio, c'avevo stavo già iniziando a capire un po' la maladata, capito? Computer, va così, ah tu stai andando che stai imparando, se non sai niente, io sono partito da zero proprio, zero completamente, poi sai vabbè, ho detto di uno, ho detto dell'altro, guardi quello che fanno e impari, capito già. Beh certo, come tutti. Ah, tu. Via. Beh. Logicamente bisogna essere così, bisogna imparare anche nella pista, perché così, ma uno se è intelligente già ci riesce a fare le cose. Io diciamo che già apprendo subito, vai. Cioè, non è una cosa che ti resta un po' difficile, no? Tipo l'altra volta, ero incazzato, ho dato un colpettino, no? Un colpo così, pum. Poi ho preso un po', ho sbattuto, c'è andato a fare un culo al computer, già lì ho avuto scritta strana, dove no? Riuscivo a bucare di piedi, e poi si è verificato che era l'hard disk adatto. Il colpo che ha preso si era andato a farsi benedire, era troppo alto, capito? E lì mi è costato. Anche da poco mi stava di nuovo il coso di tiraglio, ma poi come cazzo lo fa a fare? Sempre dopo lo si dico pazienza, è un gioco, so che ti va fastidio, perché anche se sono cose non vere, cioè tu con il punto in mano, quello con due carte che non vanno da niente, ti prende e ti ci girano le palle, ecco cos'è, non per altro, non è perché voglio vincere sempre io. Ora, carte buone ho il dito di riprendere io. C'è la G, due assi, ma sono buoni come due K, cazzo ti prendono un 3, perché non lo so, qua in mano c'è un 7 un 3, in terra invece gira e prendo una trocca, fa gira 2 e 3 e mi fa un tris, io con due assi oppure con due K in mano ti prendono, capito? E si gira, mi si girano le palle. Ciao, io sei con la verità, non è che giochi nessun gioco, mi raccolgo Brislam ogni tanto, ma giusto per dare una lezione a qualcuno che fa un pochettino di sbruffone. Ma poi no, io altri giochi non ne conosco, non ne faccio. Io non ne faccio nessuno. Scappa. Allora io me lo posso giusto perché molti sono un pochettino sbruffone, quindi per farle sapere che non esiste nei suoi ruoli. E basta, ma no, del resto non me ne importa nulla a me, dei giochi. Kappa, kappa. No, manca a me, sinceramente. Kappa. No, ma lo sai cosa è Gianni? È giusto per farle vedere che non te ne importa nulla, però no, uno non è scemo, tutto qua è perché si vantano tutti questi discorsi strani. Allora ogni tanto qui lo fai, ti fai vedere il punteggio, sei a baita. Io fa soddisfazione in misere per loro, capito? Ma uno se gli piace lo fa, se non gli piace gli altri possono pensare quello che vuole. Io giochi non ne faccio di nessun tipo, perché se vi pongo a giocare vi piglia male, come sta facendo mia moglie con questa storia della fattoria, a carità. No, ma non cerco altro, no, non mi interessa proprio. Io sono ogni tanto che qualcuno ha detto una cosa e... Tu per me te lo posso vedere io perché sto con gli occhiali. Mi ha dato quello che ho fatto apposta. Ma già. E io? No, Farville, volia. Farville, sì. Papà, mamma mia. Poi c'è anche la piantagione della marijuana, il gioco, ma vai. E ne ho tanti. Guarda. Ne ho tanti giochi. Tanti, tanti. Insomma, tutto giochi, va. No, un sacco già. Certo, su Pet Society, lo conosci? No. Come no? Cosa hai detto? Su? Pet Society. No, non sono mai entrato. Tu sei giusto, non lo sto pronunciando. Comunque è un cane che tu devi andare a mangiare, capito, lo lavi, c'è la casa, c'ho varie stanze, no? Stai del toro, poi c'ho le piante che escono con le sole bene, poi c'ho un po' di tutto, piante, tutto, c'è nel lì, va là. È tipo la fattoria, là, che deve entrare, mungere le mucche, dare da mangiare, insomma, le galline che fanno coccolè, dato che barbari, ma io non so come, andare a fare a contadino. Ma guarda, sono andato l'altro giorno quando ricompo di Luzza. Non capisco niente, già là ho chiuso. Ho evitato anche a portare la manuale. No, no, ma io la come era? Cosa dello spinello, boh? Io almeno sempre mi inviti gioia, non ci vado mai. No, ma manco io, no, ma che sono andato una volta, ho provato, ma non ho cavato il piede. Mi ho dato un regalo, aspetta, vediamo un po' cosa cacchio è. Ma tu? No, dimmi. In verità, una roba è arrivata, aspetta che cazzo è. No. Possiamo cosa? Mi lascia la mosca addosso già al cane. Cioè abbandona la base e si fa la doccia. Cappa. Dimmi tu. Cappa. Sono tutti io che. A me non è che amo questi giochi qua. Io l'ho fatto solo esclusivamente perché per questa cosa qua. A chi mi ha sfidato, non sai giocare, sai come? Vuole prendere lo scemo, ha detto ma trovo di dire avresti sotto gli ugali. E loro prego sui punti, è molto più bello, molto. Tutto qua, ma non è che mi interessi a me giocare, cosa? A me mi piace giocare una mappetta di Ridinà, ma mi piace giocare che cosa. E vabbè, sono giochi, diciamo, così, passa il tempo, capito? Non va a fare il tempo. E certo che poi, se uno non gioca proprio per... ci sono comunque, se vuoi, non è che... giochi e servizi, beh, invece veri, poi devi rischiare di avere. No, non è, non per quello, non è una battuta, no. No, fa i giochi e cose. È una battuta, è capito. Raga, io me ne vado tutta a nanna. Ci sentiamo che sono stanco morto. Alla prossima e buonanotte a tutti. Ragazzi, ciao già. Buonanotte. La sabattone. Buonanotte. Grandi, mamma mia, c'è più di altro nel vai, bubù. Non ti preoccupare, dove dormire, ti dà, riposati. Colari, dove tu? Io vi ascolto così poi, si mi addormento ascoltando. Che fai che fa? Già, non ti addormenti, faccio la piatta. Cosa? Ecco, una volta che ti addormenti, fatto la tirata. Come dire, non ti scende, non vuoi appendire, non la scatola, no? No. Io, grande, detto mio figlio non piange più adesso, diciamo, di notte non piange. Se non è che c'è qualche cosa di grosso, se no è tranquillo. Non è barriato di volte, gnogno. Allora, se ne vuol dire quello, te ne vuol dire magari per i giochi, no? Sai, per i computer si vuole a bozzi. No, quello no. Se rispondi la PlayStation si mette a piangere. Andava, buonanotte già, a domani, ciao. Ciao. Buonanotte. Ma non l'ho mai comprata io. Cos'è? Lo stesso. Ma mattina, non fa per me, boh. Ma ok, un gioco vedo, allora un gioco mio fratello, che praticamente guidava, mi sembra che sembrava che stava guidando lo scalatore, allucinante qua, allucinante. Solo che poi si dice, hanno copiato quel CD, era un bel gioco, era, bella quella volta. A me piacciono le macchine, mi piacciono. Praticamente devo dirvi. Uno scalatore buttare caricare il carro, sono andata a bello quel gioco, era molto divertente, non è che è bello. Ma che però l'ho preso il CD a fa un cuffia, vabbè. Ma sta fatto? Sai, mai? Se non ti ricordo il CD, lo si rovina. Ma sai che ho bisogno messo bene, la struttura sicuramente ha appoggiato così. Ma infatti, capito, è quello. E quello, cazzo, avvicinate poco fa quel tipo, cerva, ottavo livello, io lo sono, sesto livello, cazzo, ma da via, scusate, dovete miliardi, io confronto ne ho 2 miliardi, 3 miliardi quasi, cioè una cosa allucinante, beh, vuoi tirare la pata o ci vuoi preso? Avete tutto in busciata la guai. Ma io gioco incubi, cioè, mi battono i prezzissimi, ma non passi, passi. Ma adesso siamo scendati una fanculo, ma contro i migliaia, voglio dire, vuoi fare molte cose, anche fare qualcosa che ti è sempre piaciuta, che non va mai voluta fare. Eh sì, a me basta anche uno tu, a voglia, ma me, a me, magari. Scappa, ma a me basta che mi dicemo io e dicemo tutti loro, e qua, e basta, perché dicemo a me, è familiare di qua e mi sistemo io per l'altro, non me la funziona. Ma prima faccio per me, poi se li ammazzano o per gli altri, se non è se la migliore il culo, non fracassa a me, prima penso a me. Vabbè, avete un diverso rapporto, avete. Ma io penso sempre di. Visto che è così, delle persone che stanno più vicino, non le persone che accudini al momento del bisogno, puoi aiutare la persona che ti è sempre stata più vicino in assoluto. Ah, quello sì, vabbè, per forza. Ah, quello lì sì, però dico, tu vabbè su vabbè. Beh, se ne parlarti, beh, se non vede mi ha fottuta. Però con capo io. Ma se qualcosa avanzerà sempre, no? Quindi mi prendo tutto, Chiappa. Scordati una cosa, che quando si prende quell'avvio lì, bisogna prendere e riacquistare. Prendere 10 e acquistarne 20. Sempre così. E si confermo. Chiappa, perché se tu spendi senza riacquistare soldi, sei morto. Beh, normale, va a finire che praticamente ti spendi tutto e non vai un cacchio, capito? Vaffanculo, sto somigliato, vaffanculo. E vuol dire, cara, tu è così, ci sto rando a pigliare, ma che culo faccia, no, un gappa, non si è fritta adesso. Ma certo, bisogna farla funzionare a 1000. Bisogna farla funzionare a 1000 e ragionare, perché anche quando tu li metti in banca c'è un certo interesse, bisogna farli girare non una banca solo, ma divisi in due banche, c'è bisogno, questo è una cosa, bisogna farli funzionare. Beh, aspetta un attimino che spengo qua. Allora. Ok. Ecco qua, aspetto. Cosa dice a me? Le 11 subito. E fai affa. Quando si prende quell'avvio, bisogna ragionare. È tutto. E via. Magari fare anche un qualcosa dove ti porti soldi, cioè tutto un giro strano, va. Però dove devi farla andare, senza rimetterci nulla mai. Beh, adesso devi far girare tu. Se devi far girare un casino, capito? Come fai? Cioè, i soldi devi sapere anche gestire. Perché sono anche gestire, lì sei PD, è un casino. Se tu mangi così ti rimani, ma con te la bici. Ma se uno si incontra bene, fa le cose fatte bene, e la buglia. Va sempre, già. No, non credo di dover fare cose fatte bene. E poi dipende secondo quanti soldi cioè, riuscite a implementare in più. Allora lì puoi pagare, provare, cosa nel senso, se ti piace qualcosa, aprirti un qualcosa, giusto per fare, provare a fare, se ci riesci a fare altri soldi, se non ci perdi nulla, cioè bisogna ragionarla. Bisogna ragionare col cervello un pochino, dai. Si conferma, e si conferma, tutto così. Ma, dal momento io dico una cosa, dal momento che uno prende quell'avvio, devi il cervello lo devi usare, devi macchinare a mille. Deve essere sempre perfetto. Posso, che non tutti ragionano bene. Adesso prendiamo un esempio, se uno vince, adesso un miliardo, no? Solo esempio, e fa uso di sostanze sottofacce di tipo cocaina o eroina, mi si dà tanto di due, un mese. Ma quella lì è gente che non... spero che non... se non lo guarda, quella lì è gente proprio mondetta, cioè non... guarda, è... da non considerare. Perché? Dicono così, capito? Mi ha tutti usa, tanto vittime, si vive solo una sola volta, guarda se mi perde i muschi, allo sballo. Giappa. Ma se pensi a tempi lunghi, tutti canti che si di là, a questo sballo, può durare una vita, pure, non è che... Ma se tu fai un esempio di Puffo, il cantante, quando si andava, cioè la moglie era avanti lì, poi lui si andava al casino, cattivava via Ghisso, si era trovata qui a terra, tutto quanto si è mangiato, tutto quanto a questo. Al casino era andata, al casino doveva andare, non al casino. E poi, diciamo, meno male. Sono riuscito a fargli fare un programma, a recuperare un po', ha aiutato, ma sono mangiato un dutto, non so quanti milioni si ha mangiato. Certo, manco, quello lì manco vicino ci passa, perché non me ne può fregare niente. Non sono quelle le cose della vita. Allora cosa aveva fatto lì? Avrei preso un locale grande e aveva posto tutti gli altri che si dio poker, beh, dunque c'è. Fai così, no? Fai così. Casino. Se mi sono tesa a gestire, vabbè, voglietti, cazzo. Io lì poi di macchina, Paolo Cagga, mi ne sono ben gusti. Adesso mi devi cazzare, di mangiare. Panini, ma li fai bianco. Da. Allora, da qui, da quelle cazzo di macchinette, lo sai, i gestori, le risorse che stanno facendo? Io mi sono, vogliate, ma come fa? Sono la cruce, tu ne vuoi 1.000 euro, mi sa manca, le cazzo, non va con tu media, se non ti distribuito al muro. Ciappa. E così, chi si è fatto in ame, pure? Nico di comparecchi, vai a affitto, ti stanno delle sala giù, con la gente va a giocare. La macchina più gioca, più va, fornisce i bar e cose. E più soldi sono, c'è un giro di soldi, chi si è fatto in ame? Posso. Vedi, a dei signori a balle, a sto che di là esci. La vita è bassa, un casino, ma che sono bastato? bastardo. Come vuoi, giocarci neanche un euro, nulla, niente, nulla, manco un euro, zero. Chiappa. E vabbè, bisogna stare attenti, bisogna stare. Bisogna toglierne, bisogna contentarsi anche del poco. Perché tu fai, per esempio, come faccio io, mi tocco quelle 10 euro al giorno, però se non ci riesco la toccare, quelle 20-30 euro, se ci riesco. E quello è mettersi. Però se tu cominci a giocare, lì c'è il pezzo, c'è molto. Ma come fai tu? Come fai? Pesino, come fai? Cazzo, ma sto figlio di puttana, ma cosa mi ha preso? Bastardo, ne ho preso. E vabbè, comunque. È un casino, è un casino. Un casino, ino, perché non lo come vuoi giocare, sono a fare nulla. Mi ci sento, guarda. Anche se tu ci vuoi al giorno, due al giorno, mi ci sento tu. Non ti muovi, ti in busciaccala. Poi vinto tu, non la macchinetta, non hai vinto la macchinetta, perché non puoi dire che hai vinto, no, perché io non ho vinto, non ho vinto nulla, adesso ti vattui, ah, però se vuoi fare recuperare ancora. Vabbè, ma se uno ci mette un euro al giorno, magari riesce con le 2 euro al giorno, e riesce a togliere 10, 20, eppure qualche volta che il colpo di culo anche 50, invece. Vabbè, aspetta un attimo, ok, ma è troppo alto. Vabbè. Ma in quale già li avrei messi? Avendo tutti queste cifre, una vita di queste cavolo di macchinette già conviene, già, perché porta un bel po' di soldi, tanto buono che si gli offre. Già c'è gente che si è fatto le file, le cose. Lo so. Allora, sai cos'è? Il problema è che praticamente bisogna stare attenti. No, stai attento, perché sennò è un casino, casino. È un casino, casino. Cazzo di merda. No, io ho già... ci ho tirato la... fra la mano, basta. Sono tutti coglioni. Va. Oh, se si prende così male, la cosa no... non succederà neanche. È meglio che ti fai le cose tue. Allora io con tutto, ma tutti più nuda, basta. Troppi qua ci ho mangiato. So. Meglio che... meglio pagarti qualche cosa che ti piace, comprarti qualcosa che ti piace, che buttare le cose. Infatti. Finiti sono, basta. Ma poi sempre il rigaglio, però sempre meglio di buttarci il rigaglio. Sono questi che sono mezzo agnoli, agnoli. Ti piace, infatti. Sono delle sigarette ogni tanto, non sempre. A zero dopo. Comparete una bella di ghiaccio, una bella di tutti in ricotta. Tutte cose che a me piacciono. Lo so, purtroppo è così, un po' casino. Ora bisogna saper gestire, perché se non si gestire è un casino, ti volano. Non sempre, non tutti i giorni, però siccome qua piace a tutti e piace a me, no? Allora io mi ha dato, cioè, quegli euro risparmiati di chissà Marazzoce che mi fumavo prima, ogni tanto, non sempre, perché sempre non si può fare. Ah, dammi metà forma, dammi una forma, e via. Eh sì, cazzo, pure non mi ha fatto il figlio di bagassa, cazzo. Brutto bastardo, una puttina, va. Alla femmina, donna. Sei brava. Sei per fatto la lecca. bene, ma fatto, c'ho la scala in mano, pensa tu, io potevo fare il suo rilancio, questo mi ha fatto 16 milioni, mi ha fatto. Ma com'è che non è vero, se no, gno gno. Iaia. Bello. Io chiudo, dai. Ma tu, ma che so, fregato mio, va a cagare. 13 di nove. Sentiamo domani, tanto buonanotte. Ah, cioè, buonanotte. Quanto te ne hai fregato? Ho recuperato 5 milioni.